Va bene, chiudiamo con un piccolo questo momento, perché staremo ancora insieme con Rossello, un altro contributo tratto da che cosa avete? No, l'hanno scelto loro. Oh mio Dio. Alessia Navarro comanda su tutto, anche su Valerio. Prego. Ho incontrato un uomo con occhi di carbone, un sorriso da sturbo. Come potevo immaginare che frattanto mamma era morta in cucina? Cioè, la stonatura è morta in cucina. Hai capito? Non dovevo rientrare in voce, ma me la so sentita di lasciarla così. Signori, a tra pochissimo. Voi sanatemi appena cominciata e purtroppo ancora l'acerbo sarà qui con noi, nonostante il cognome. Prego. Voice Anatomy. Signori miei, bentornati. Voice Anatomy, sono le quasi le 15, 54, 59 e 53, 3 secondi. Facciamolo insieme questo countdown. Ecco, le 15 in questo istante. E la signora Acerbo Rossella è sempre qui al mio fianco, sempre sorridente, pimpante. Vedi che quando esci da casa ti diverti, tu che non vuoi uscire da casa. Ci siamo salutati prima della pubblicità con una scoperta straordinaria. Abbiamo trovato, grazie all'impegno del nostro tecnico del suono e ai nostri autori e tutti quanti, un momento cantato della grande Rossella Acerbo in Friends, e dobbiamo ascoltarlo con attenzione per capire il successo. Poi lei è molto legata a questo personaggio, come la gente è legata a questo personaggio, o se l'è legata al dito per questa interpretazione, non lo sappiamo. Comunque, riascoltiamo questo momento storico di Friends. Ho incontrato un uomo con occhi di carbone, sorriso da sturbo. Come potevo immaginare che frattanto mamma era morta in cucina? Dopo che tu hai raccontato che sei una brava cuoca, questo è perfetta, ti prende, ti contrasta sia come vocalità, dice perché l'avete invitata se canta in questa maniera. All'altra parte il direttore d'orchestra di questo coro gospel ha fatto delle facce sì, terribili, molto particolari, che conosceremo tra poco. Gianluca Buratti, che ci ha già raggiunto insieme a tutto il cast di questa straordinaria cosa che noi affronteremo in Voice Anatomy, perché il gospel è sicuramente una delle arti canore più interessanti che esistano al mondo e ovviamente offre molte particolarità. Allora, voglio leggere anche un altro messaggio che leggevamo io e Rossella poco fa, sì, che ci riempie di gioia ovviamente, un messaggio dei nostri amici molto attenti. Nel parlare di Friends non possiamo non ricordare Vittorio, il grande Vittorio De Angelis. Ovviamente noi non possiamo non ricordare Vittorio De Angelis parlando proprio di questo mestiere. Anche perché nel mio caso è stato proprio un amico vero. Ma sì, quindi una famiglia straordinaria che è tuttora, sì, papà ancora vivente, uno straordinario Maglio De Angelis, figlio del grande Gualtiero De Angelis, esatto. Gary Grant, Jimmy Stewart, le nostre madri, almeno le mie madri e i nostri nonni affezionati, perché pensavano che ovviamente quegli attori avevano quella voce, voce, non avevano un'altra voce. E Vittorio è venuto a mancare da poco tempo e ci dispiace tantissimo e purtroppo non potremo più ascoltare, come dice il nostro amico. E adesso che ci sarà la reunion, mi dice c'è la reunion di Friends. Sì, ho letto anch'io sui vari social. Ma vi inviteranno ovviamente? No, voi doppieranno, nel senso che Non è una reunion per ricordare Friends, ma ci sarà una nuova reunion. Una reunion dei Friends che è per il canale NBC, mi sembra. Ma una puntata speciale. Una puntata speciale, una sorta di intervista a tutti quanti, come sono diventati, eccetera. Ma sono grandi, anche loro hanno una famiglia. Beh sì, sono cinquantenni pure loro. Sì, più tu grande. Sei, quanti anni hai? Io sono piccola, io ho 42 anni. Hai ride. Ride. Io sono piccolina, sono la più piccola del gruppo, diciamo. Sentite come lo sottolinea con grande orgoglio. E allora ci sarà questa grande reunion. Beh, si spera che la doppieranno sicuramente. Senti, è un momento, è stato scelto anche per te, è un momento divertente, anche ironico da parte di chi sa recitare, leggere qualcosa che contrasta pienamente con quello che sta leggendo. E anche per te i nostri autori hanno scelto una cosa particolare. Io invito, come già è successo nelle altre trasmissioni, l'ultima con il caro amico, ecco che viene Damiano per riprendere questo momento per poi metterlo sul social, che ha sempre migliaia di visualizzazioni. E l'altra volta Mario Cordova ha letto qualcosa di particolare, non mi ricordo. Damiano, cosa ha letto l'altra volta? La ricetta, una ricetta con la voce di Mario, di Richard Gere, in particolare. Allora invito voi a cogliere il qual è l'oggetto misterioso che ci racconterà con la sua voce suadente Rossella Cerbo, con tanto di musica. Mettiamo una musica più dolce, eccola. Allora vi ricordo 349-238-6666 per gli sms e 800-24-0024 per intervenire in diretta con noi. E allora raccontaci questa storia, Rossella. Prima dell'utilizzo è opportuno leggere attentamente le istruzioni. Può sembrare un'operazione banale alla portata di tutti, ma usarlo con efficacia può risultare per alcuni un'impresa ardua. È pur vero che in quasi tutte le attività di utilizzo personale l'uso di un buon attrezzo è una cosa essenziale. Bisogna innanzitutto sapere come è fatto e quali sono i principali tipi di estremità e le relative caratteristiche rotatorie. Osservare le regole generali di utilizzo è di estrema importanza. È opportuno evitare di avere abiti abbondanti o svolazzanti, e se abbiamo i capelli lunghi è meglio raccoglierli. In ambedue i casi si può rischiare che la punta si impigli in uno di questi, cominciando ad arrotolare e a trascinare vorticosamente in una maniera impressionante. L'attrezzo solitamente ha il tastino per bloccare la velocità quando gira al massimo. Stabilito con esattezza il punto che più vi aggrada, procedete a un primo approccio alla minima velocità dell'attrezzo, aumentandola via via che la punta entra. È sempre bene iniziare con una punta di diametro inferiore a quella che vi serve, per poi raggiungere il diametro desiderato. Per la massima riuscita è bene che la cavità, oltre alla giusta larghezza, sia anche lunga quanto l'attrezzo che dovrà ospitare. Detto ciò, scegliete il momento e il posto giusto e buon divertimento. Beh, è certo, è ambiguo quanto basta, ma dovete crederci, è esattamente il libretto di istruzioni di qualcosa di esistente e di molto pratico. Chiediamo a voi, per divertirci insieme, ovviamente prima che Rossella vada via, scioglieremo l'imbarazzo di sapere che cos'è realmente quello che lei ha letto con questa tipologia di voce molto molto affascinante. E allora, ciao, ce ne sono altre domande da parte dei nostri ascoltatori, che sono anche dei giornalisti, da questo mi aiutano. C'è un genere di film o serie TV che non ami doppiare? No. Ami io tutto quello che mi fai. Piace sempre, perché ogni volta è una cosa diversa, è un'avventura diversa, quindi mi diverto a fare i cartoni, mi diverto a fare i reality, come tu ben sai. Sì, i documentari che fai sono quelli di Oversound, sono terrificanti. Similsync ormai. Similsync, è vero, si dice e così. Quindi insomma film, telefilm, ogni volta è un'avventura diversa, perché... Le ultime serie molto belle che affascinanti stai doppiando, House of Cards, se non sbaglio. Sì, che è appena ricominciata. Adesso poi L'Uomo di Casa, che è sempre una sitcom. Il Trono di Spade, scusami. Il Trono di Spade, no, ancora è fermo. E poi La mia è morta, purtroppo. È morta. Hanno sgozzato la testa. Quante serie hai fatto del Trono di Spade? Le prime due, poi sì, sei morta. Sì, poi mi hanno ammazzato, evidentemente. Il primo è morto pure lui, Sean Bean, la prima... Sto facendo, vabbè, Arrow, che faccio la regina dei dannati. E... il lanciatore di frecce, quello... Sì, poi sto facendo un'altra serie che però non mi ricordo come si chiama, che va in onda tutte le sere su Rete4, ma non mi ricordo come si chiama. Ho fatto una serie anche molto bella che io vi consiglio di vedere, io l'ho vista tutta in un fiato, sono 5 stagioni, che è Fringe. Che bellissima. È meravigliosa. Sì. Se vi capita, sono uscite tutte le stagioni, sono quelle cose... Io non voglio dirlo, perché sapete che... come la penso su un buon libro e una buona trasmissione radiofonica. Quelle che lasciano ovviamente il potere dell'immaginazione. Un buon libro supera ogni cosa. Come la radio. Molto meglio certe volte di un bel film, perché la radio immaginifica, ti crei l'atmosfera che vuoi, eccetera, eccetera. E però una bella serie vi accompagna anche quella nella notte, una puntatina serale di vedersi un Mad Men o un House of Cards o un Trono di Spade. È una cosa che crea proprio dipendenza dopo un po', perché sì, mia moglie pure non ci credeva. No, io le serie non le seguo, perché poi adesso no, fermo, c'ho Scandal, non so che fine fa, e ti prendono. Tu capisci perché mio marito non usciamo mai di casa, perché stiamo davanti alla televisione a vedere tutte le varie serie. Io almeno faccio finta di essere occupato e non vengo a doppiare certe serie che io guardo, e vi dico sempre: non posso domani, già ciò non è vero. È stai a casa, sto a casa, perché se mi chiamate per doppiare una serie che io sto guardando non vengo. E allora, perché crea veramente dipendenza allo stato assoluto. Vero. Tu parlavi prima di cartoni, hai fatto in animazione una cosa importante, delle anime, non te lo ricordi neanche tu? Sì, sicuramente sì. Che cosa? Damiano, Damiano, dove sei? Vabbè, Annette delle Alpi ero, quello no, me lo ricordo. Annette delle Alpi, no, dell'animazione c'è stata una serie importante che ha fatto. Futurama! Allora. Ah sì, è vero! No, dovevo intervenire, perché lo so. Ma tu puoi dimenticare quello che hai fai? Ragione. Per poi i nostri radioascoltatori sono tanto appassionati sì. dei vari Simpson, dei vari American Dad, sì. ma soprattutto delle anime. Che poi anime ci ha spiegato Gualtiero Cannarsi, grande studioso del Giappone. Sì. Io pensavo che anime venisse da qualcosa di più filosofico, di cosa filosofica, invece anime viene da animation, è una contrazione semplicissima. Proprio basic. Esatto, vabbè. Basic di animation, invece noi anime, sai, Giappone, sì. le anime. Sì, anch'io. No, animation è una contrazione. Per cui Futurama. Futurama sì. lo fai, l'hai fatto per tanto tempo. Lo sto facendo perché ogni anno torna, però ogni tanto mi dimentico di quello che sto facendo. Vedi, qui sì. mi dicono... La mitica Amy, sì, sono io. Oh, qualcuno ha detto, allora prima, vabbè, un vibratore, è arrivato anche un vibratore, sono due tre su un vibratore, ovviamente, ma non certo. siamo così... Insomma, scontati. Anche perché sono le 3:10 in questo momento, cerchiamo anche di mantenere un orario consono dove anche dei ragazzi stanno magari ascoltando la radio, è un po' più elegante. Un frullatore? No, neanche il frullatore. Un martello pneumatico, vabbè, ma no, mi sembra troppo. Fringe è meraviglioso, una serie davvero intelligente, questa è un'altra. E Vittorio, aspetta di Lorenzo, io dico che è un trapano. Esatto. Ah, bravo. Bravo Lorenzo, non vinci, puoi vincere se vuoi, se sei un di applauso. Roma. Bravo. Un applauso sicuramente, ma se volete venire volete venire a assistere anche dal vivo alla trasmissione a Voice Anatomy, siete i benvenuti. Noi riapriremo fra poco il nostro concorso per voci profane, nel senso che avevamo una voice box che dava la possibilità alle persone che non fanno questo mestiere di intervenire, leggere un monologo o qualcosa per poi magari vincere qualcosa, essere presenti qui, farsi pubblicità o comunque se qualcuno di loro è venuto al Gran Premio Internazionale del Doppiaggio. Vogliamo riaprirla questa cosa, che molta gente ama questo mestiere, sì, profondamente, come ama il mestiere dell'attore, e si diverte anche in maniera così quotidiana, anche se fa una persona faceva l'autista di autobus, si piaceva recitare, ci ha recitato un brano, poi l'abbiamo intervistato perché è giusto, io lo metterei, lo dico sempre, nelle scuole proprio fissa questa cosa, la recitazione, il teatro, la voce, lo studio della vocalità, perché è fondamentale per il futuro di tutti, dei nostri professori, dei nostri politici, dei leader, di chiunque voglia essere qualcosa nella vita, deve sapere come utilizzare la propria voce e si deve insegnare da bambini. A proposito dei bambini, so che hai aperto una scuola di doppiaggio per bambini sotto i 12 anni, com'è sì, la storia? Noi praticamente avevamo l'esigenza di avere dei bambini sì. Da far doppiare, perché ovviamente sì, non c'è più tempo di esatto. insegnare in sala come era prima, come ero piccola io. Però purtroppo è stata un'avventura che è stata presto conclusa, perché la fatica era tanta. E quindi a nostro malincuore abbiamo deciso di lasciar perdere, nel senso sono venuti fuori dei nuovi talenti, appunto Luna Iansante, La figlia di Cristian, che è la voce ufficiale di Radio 24, Lucrezia poi. Mia figlia, altri due bambini, Daniele. Per cui è ferma adesso questa sì adesso avventura. Sì, perché proprio per stanchezza, perché volevo stare davanti volevo stare sul divano il sabato e la domenica e le pantofole. Vedi come sono attenti. Futurama non è un anime, è un cartone no. americano. Sì, assolutamente no. Non ho usato impropriamente questo anime, perché comunque ci capita di doppiare molti film, molti cartoni che sono anime. Quello assolutamente è un cartone americano, come American Dad, come i Simpson. Ma vedi subito come mi riprendono. Io Annette delle Alpi però è un anime. Annette delle Alpi è un anime. Io sì. non ho fatto altro che immaginarmelo. Annette anche agli Avengers io facevo Tom Baker, sa? Ah, adesso te li ricordi tutti. Certo. Ma Tom Annette dei come fa? Annette delle Alpi. Com'era? Quando andava? Sui monti con la... Sui monti con Annette. Non ti ho chiesto di cantarla. Dove il cielo è sempre blu. Ma vabbè. Là con Dani e con Lucien. Vieni, vieni anche tu. No, va bene. Dall'altra parte vedo stanno cantando con lei sia Alessia che Valerio questa canzone. Io chiedo scusa se non la conosco così profondamente. Forse perché tu eri già grande. Salutiamo Rossella Cerbo e non ringraziamo. No, l'applauso no, ti prego. Non è questa osmosi con i nostri ospiti, Valerio, è gratuita, è anche superficiale. Secondo me, meno male, manca solo un minuto alla fine dell'intervento di Rossella Cerbo, con la quale ho lavorato splendidamente in questi anni. E che è un peccato doversi salutare così, invece di rafforzare la nostra amicizia, è stata messa a dura prova da quest'ultimo intervento, ma anche dall'altra parte, vedo che hanno applaudito. Vabbè, ovviamente stiamo scherzando. Comunque Annette, pensavo l'aveste chiusa per sempre, meno male che la riaprite. Cosa? Non la trasmissione, immagino, forse Friends, forse no, non so, Futurama. Sì. Mi manca il soggetto. Vabbè, io Futurama sì, ripartirà ogni anno, ci saremo. Una nuova serie, sì. E tu la farai? Sempre. Sì? Sì. Anche dopo una capocciata nei denti durante la pubblicità riuscirai a parlare nello stesso. Sì, parlerò tutto con gli Futurama tanto piano. Io non Futurama. Io ti chiedo di rimanere ancora, nonostante quello che è successo fra noi in questo momento, perché accoglieremo dopo questo blocco pubblicitario i prossimi ospiti capitanati, non voglio sbagliare, poi mi dirà meglio Gianluca Buratti, questo coro gospel di Roma, ed è bello questa cosa, invece di New York, Los Angeles, Harlem, eccetera, e con loro cominceremo questo viaggio all'interno del mondo. Magari mi candido gospel come cantante. No, dopo che t'hanno sentito purtroppo. Cara Acerbo, ti hanno sentito e resterai uguale al tuo cognome per quanto riguarda il canto, sai, non ci sarà nessun tipo di maturazione. Signori, a tra pochissimo, un Voice Anatomy. Voice Anatomy. Signori, c'è un attimo di trambusto, non c'è la radiovisione, ma posso raccontarvi che lo studio è preso d'assalto perché saremo 7-8 persone. È successo anche con i Baraon, il gruppo di vocalist che ci ha accompagnato per qualche puntata. I rumori che sentite sono le persone si stanno acclimatando. Vicino a me è rimasta la Acerbo che senza cuffia, ma non c'è problema, tanto non ci sono 2000 cuffie, in effetti stanno aprendo pagine. Allora vi presento cosa sta succedendo. Ho voluto che Rossella rimanesse qui intanto per salutarvi come si conviene. a una professionista come lei, poi per raccogliere questi signori, e vi racconto un po' la bio di Gianluca Buratti, che è quello che sta accompagnando questa situazione tecnica all'interno del nostro studio, che sta diventando veramente ricco. Allora, il nostro amico Gianluca inizia lo studio del pianoforte classico da bambino, affiancato in famiglia anche dal papà, che è un tenore appassionato nonché corista, che lo educa a frequentare le principali sale da concerti e teatri. Che bella cosa, complimenti a papà. Sì. Il debutto come tastierista nelle prime band risale ai tempi del liceo, successivamente si dedica all'accompagnamento di cantanti, tanto lirico quanto nel piano bar. E questa è un'altra cosa che ti faccio i complimenti, perché bisogna essere così larghi e per conoscere tutto. Ti piace la musica? Sì, bella. Io vado da Albano a Sakamoto tranquillamente, senza nessun tipo di problema. La capacità di utilizzare ottimamente la programmazione MIDI, che è un modo tecnico di scaricare gli strumenti, gli ha permesso di avere collaborazioni con diversi musicisti nell'ambiente romano e di realizzare diversi lavori in sale di incisione, ovviamente come arrangiatore. Dopo svariate esperienze, eccoci che arriviamo, decide di avviare nel 2007 il laboratorio di canto corale gospel presso l'Università Popolare di Roma e di fondare il Seven Hills Gospel Choir. Vi ringrazio di questa pronuncia. No, bello, 8 tutti. Microfoni che mi hanno ripreso. C'è una figura, ogni volta che io pronuncio una cosa in inglese succede il panico, e poi dovrei saperlo bene, visto Rossè. Certo, anch'io proprio. Certo, choir, capito? Che per me choir è un animale che vola. Ma comunque allora grazie. Senti, anche per voi sono due puntate che farete con me, la prima e l'ultima. Grazie. E allora, dopo questo choir dell'Apter, nel maggio del 2010, con il quale svolge un'intensa attività concertistica, all'attivo inoltre due CD come cantante jazz swing della RJB, l'ho detto bene. Benissimo. In cui i proventi ricavati attraverso la distribuzione sono stati interamente devoti a Teleton. Allora, eccoci qua. Presentaci, intanto presentiamo Gianluca Buratti, ovviamente non c'è la televisione, è lui alla mia sinistra, ha preso il posto di Rossella, Rossella è qui al mio fianco, siede alla sinistra del conduttore. Gianluca, eccoti qua, mi presenti queste 12 persone che hai portato, sono 5. Intanto grazie, perché una presentazione così credo che... Beh, da vivente, non mi un coccodrillo, no? Da vivente, non succede quasi mai, no? Mi ricapiterà più. Allora, qui davanti a me, alla tua destra, così sì, gli amici a casa, esatto, hanno un'immagine dello studio. Sì, è come le radiocronache delle partite, la destra, attaccheranno la destra verso sinistra, prego. Esatto, abbiamo 5 elementi del Seven Hills. Li presento, sì, a partire dalla tua stretta destra, quindi Antonella. Ciao Antonella, benvenuta. Silvia. Loro Silvia. Sono soprani. Sì, sì, l'ho riconosciuto dalla pettinatura. Che erano soprani. Poi voglio vedere quando parliamo della mia di pettinatura che sezione sì, troveremo. Tu hai i capelli postdatati come il mio amico Ciufoli, sai così. Infatti esatto, la luce esatto. Si rifrange su di te come un'aureola. In pallo, devo dire. E poi dopo i due soprani abbiamo Luciano Fabrizio, tenore, Daniela Raguso, soprano. Contralto, contralto. Ancora più su, più, no, giù. Più giù. Più giù. Non sapere se lo sapevi. Addio, ma Rossella, sta zitta. Ma buona, stavo scherzando. Prego. E l'ultimo, che è attaccato a quelli, al monitor, è Massimo, che è un basso. Basso. Ciao. Ciao Massimo. Buongiorno. Allora tu sei in piedi, non sei seduto? Basso. Va bene, no, abbiamo giocato un po' ovviamente in maniera goliardica. Il gospel è sicuramente la cosa più affascinante, io lo amo profondamente. Sono molto affezionato al gospel, quello non il classico. Io mi riferisco ai nuovi reverendi negli Stati Uniti, di Arion Kirk Franklin, eccetera, il Mississippi, tanti cori, non When I Sang of Machinin, insomma quello lo rifuggo un po'. Voi cosa fate? Come nasce? Quale significato possiede? Come si è diffusa proprio nel mondo fino a te in Italia? Cioè come ti sei preso il gospel? Come ti ha abbracciato? Come l'hai portato qui? Adesso, che poi siete pure bianchi bianchi. Bianchissimi, poi. Direi che più bianchi di così esatto. Si muore. Esatto. Io contrariamente a quello che hai appena detto in realtà parto invece dalle origini, dalla tradizione, anche se il coro nel suo sviluppo esegue durante i suoi concerti e ha nel repertorio un po' di tutto, quindi sì. dagli spiritual a Kirk Franklin per certo. Intenderci, però credo che il messaggio più importante che è contenuto all'interno dei canti non possa prescindere dalla conoscenza della storia e quindi tutto ciò che è evoluzione ha dato origine a questo fenomeno musicale. Quindi la conoscenza degli old spirituals è un passo imprescindibile per chi vuole avvicinarsi con lo spirito con cui che lo periodo facciamo storico noi. Stiamo parlando? Dei primi del Novecento, dove molto prima? Se parliamo proprio dell'origine degli spiritual, dobbiamo ricondurci direttamente al periodo della schiavitù. Questi sono canti di persone che furono strappate alla loro terra, non avevano portato con sé alcuna valigia perché non avevano libri, no. Non avevano nulla, nessuna tradizione, quindi soltanto una grande passione e il ricordo della terra lontana, quindi dovevano trovare il modo di poter sopravvivere, lavoravano duramente nei campi, piantagioni, le donne erano più fortunate perché trovavano lavoro magari come domestiche. E all'interno degli All Spiritual c'era non solo il racconto della giornata, la malinconia, il dolore, la sofferenza, ma sono le radici del rap praticamente, da questo in piccolo proprio, uno spin-off del rap. Se la vogliamo. Il rap è uno spin-off di questo che nasce ovviamente dalla strada per raccontare tutte le emarginazioni, eccetera. Lì raccontavano la giornata e come poter sopravvivere a quella giornata, è attaccandosi vero. A Dio o all'amicizia, a tutti i valori meravigliosi, per cui nasce che poi Dio è arrivato dopo, sì, perché sì. All'inizio non c'era veramente e soltanto non c'era in tutti i sensi per loro, no, erano abbandonati da tutto. Assolutamente sì, anzi utilizzavano poi molto spesso questi canti e qui nascono le work song, quindi i canti per accompagnare i ritmi lavorativi, oppure i messaggi segreti, perché molto spesso all'interno dei canti c'erano nascosti dei messaggi in codice tra di loro per comunicare anche tra campi di lavoro e dire guarda il padrone sta andando via. Mi confermi anche che il tip tap è nato per questo motivo, era un codice che i neri d'America si passavano anche loro, come era un punto linea fatto con i piedi, con i rumori dei piedi, così si narra anche che questo nasce come punta dei piedi, ma all'inizio addirittura non avendo strumenti musicali anche i bastoni delle scope, perché certo. Si potevano accompagnare con tutto quello che poteva certo. che nelle loro mani. L'orchestrazione era questa. L'orchestrazione quella era, oltre chiaramente allo strumento principe che era la voce. Per cui tu sei partito dalla base. Io sono partito questo. Dalla base, poi a questo punto arrivano i predicatori e quindi loro che all'inizio non erano accolti nelle chiese ascoltavano i canti da fuori E man mano che iniziava la familiarità anche con la lingua inglese, che molto spesso storpiavano, certo, utilizzando termini un po' particolari. Fanno come faccio io oggi con la lingua inglese praticamente, insomma, esattamente siamo nel 2016 e non dovrebbe succedere. Ma probabilmente se consideriamo tutta la loro storia, furono bravissimi. Porto come esempio, ad esempio, il Kumbaya. Kumbaya era un canto in realtà che eseguivano i battisti, era Come By Here. Ce l'ha, dice il nostro tecnico del suono, hai Kumbaya? Vuoi mettere? Ma abbiamo loro qui come voce, però bello, oggi è prontissimo, si vede che ha capito che ho parlato male di lui in direzione generale. Ma senti, vuoi farmi ascoltare prima che ci, ovviamente ci salutiamo solamente per questo blocco, certo, con i nostri amici, la voce dei nostri, dei tuoi grandissimi, il tuo grandissimo coro gospel? Facciamo sentire qualcosa? Vogliamo provare. Allora, visto che stiamo parlando di origini, e l'origine chiaramente va trovata nell'Africa, facciamogli sentire qualche sonorità. Vi serve Rossella Cerbo in sì, questo oppure no? Perché no? No, perché no? Ve lo dico io. No? Perché no? Perché no? Prego. Cattivi. Zitta. Un canto semplicissimo in africano composto da tre parole, sia Hamba e Kukanien Kwenkos, che significa marciamo alla luce di Dio. Amasia, humba, kukanyen, kwenkos. We are marching in the light of God. We are marching in the light of God. We are marching in the light of God. We are marching in the light of God. Light of God. We are marching, marching, we are marching, marching, we are marching in the light of God. Light of God. We are marching, marching, we are marching. I love you, Jesus. Marching, we are marching in the light of God. Sia humba e kukanyen kwenkos. Beh ragazzi, bravi. Fantastico, non era un CD, era live in questo studio straordinario. Grazie a Gianluca, grazie al Seven Hills Choir, ma non grazie per adesso, perché torniamo immediatamente tra pochissimo. Grazie. Grazie. Voice Anatomy. Brividi qui a Voice Anatomy, pomeriggio, questo straordinario coro gospel di Roma, accompagnati e creato e costruito dall'amico Gianluca Buratti. La mia dolce amica e collega Rossella Acerbo arriva a mettersi in pantofole, sì, a casa, che ha capito che tanto questo non la prenderanno mai. Complimenti, per un siete bravissimi, eccezionali, è stata, grazie, veramente un'esperienza sentirvi dal vivo. Mi ha emozionato. Loro non posso dire altrettanto di noi, però va bene così. Va bene così. Saluto a tutti, grazie Pino, un tanti bacio. Baci. Tanti. Ciao. A te, grazie Ross, un bacio enorme, grazie. Ciao. Grazie davvero per averci fatto, grazie, compagnia all'inizio di questa domenica, all'inizio della nostra Voice Anatomy. Ma continuiamo questo viaggio interessantissimo, affascinante nel mondo degli spiriti, nel mondo del gospel. Siamo partiti dall'Africa, dove tutto ha origine, anche forse l'uomo ha origine da lì, è l'origine di questi canti, e continuiamo questo percorso. Qui mi leggo una domanda interessante, anche perché voglio capirla anch'io, molto interessante, la modalità solo contro coro. Che cosa significa relativamente a questa tecnica? Che significa solo contro coro? Ma probabilmente solo contro coro ci si riferisce al metodo antico delle chiamate e risposte, calls and response, in cui il solista, che in Africa poteva essere ad esempio un capo tribù o uno stregone, chiamava dei versi e la popolazione rispondeva. Ripeteva. Quello che oggi fa il sermone in chiesa, insomma. Assolutamente, esattamente, ricalca quello. Gesù, vai, e gli altri rispondono, eccetera, eccetera. Se vogliamo, sì, fare ad esempio l'esempio, he's got the world in his hand. He's got the whole world. in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. Tanto per... Ma che bella una messa così. Io veramente, se Papa Francesco è in ascolto in questo momento, arricchiamola con queste forme di anima e di soul che avvicinano moltissimo ovunque. Tra l'altro, visto che l'hai nominato, noi sabato prossimo saremo proprio in udienza, ma non so se potremo cantare, chi lo sa, ma tutto il coro sarà presente all'udienza. Ma io credo di sì, all'improvviso, fai una sorta di improvvisazione. Ci proveremo. Tu vai per salutare Papa Francesco, tu organizza un'armonizzazione con Papa Francesco, San Pietro, metti dentro qualsiasi cosa, un piccolo saluto, io credo che lui apprezzerà moltissimo. Invece di salutarlo Papa eccetera eccetera, in quel momento ringraziatelo armonizzando una cosa, poi saremo tutti, quindi è quasi lì 50 non persone. Capito, pensa che bello che viene fuori. Guarda, secondo me viene un virale fortissimo. Ci proviamo. Dai, provate, ci proveremo. Provate. Poi ti leggiamo sapere. Sul giornale: arrestato il capo di un coro gospel di Roma, Gianluca Buratti, pensava bene di utilizzare la platea della Sala Nervi a provare un suo spettacolo. No, viene portato via dalle guardie svizzere e allontanato. Il coro si è sciolto. No, non sarà così. Invece no, secondo me io la tenterei una strada del genere. Abbiamo visto il solo controcoro. E a livello di struttura, come si articola proprio un canto gospel? Dunque, se andiamo a prendere le canzoni di oggi, sono tutte composte col classico schema della strofa, del ritornello e del bridge più o meno finale. All'inizio era un racconto, una narrazione, tra l'altro molti canti avevano all'inizio la struttura delle otto battute, quindi una storia con Colt e Repons, molto spesso. Una narrazione con un ritornello vero e proprio. Mm-hmm. E poi man mano che il tutto si miscelava con altre cose che stavano nascendo lì, il blues, il jazz, la struttura si allarga e vengono inserite anche variazioni su tema a livello melodico. Ma le strutture degli spiritual tradizionali viaggiano tutte tra le 8 e le 12 battute. Questo è lo schema con la narrazione e la risposta. Bene, e come è suddiviso questo coro gospel? Cioè, quali sono le sezioni che lo compongono? Come hai fatto adesso questa suddivisione, ovviamente come fosse un coro vero, insomma. Sì, sì, controllo il tenore, il basso, eccetera, ovviamente strutturato nella maniera classica di un coro. Quanti elementi sono il tuo coro in tutto? Non l'hai potuto portare tutti perché non c'entravamo. La prossima volta magari andiamo a Milano, che mi hanno detto Barisoni che c'è uno studio grandissimo. Fantastico. Magari può essere un'organizzazione. Quanti siete? Una cinquantina? Al momento siamo poco meno di 50, 46 elementi, suddivisi tra soprani, mezzo soprani, contralti, tenori e bassi. Certo, 50 elementi. Abbiamo portato, ecco qui, una rappresentanza di questi. Siete tutti di Roma, vabbè, di origine, magari qualcuno sarà, ma vivete tutti a Roma. Viviamo tutti a Roma. Seven Hills, i Sette Colli. Per forza. È quella. Senti, esiste una particolare tipologia di voce necessaria per cantare musica gospel, o chiunque potenzialmente potrebbe cantare questo genere con un adeguato allenamento vocale? Se tagliassi il mercato probabilmente mi sparerebbero. No, io credo che se il gospel viene vissuto così come lo stiamo vivendo noi, può essere aperto veramente a chiunque abbia un minimo di competenza canora. Poi è chiaro che si fanno dei percorsi all'interno del coro per migliorare la propria presenza vocale, tecnica vocale, ma di fatto inizialmente nel coro è importante la comunicazione. Voi cantate, questa è una curiosità mia, anche nelle chiese? Assolutamente, nelle chiese sì. Un vostro concerto oppure anche durante la cerimonia, anche la funzione? Ci si riesce oppure no? Sì, quadrata la diciamo liturgia che non permette questo? No, non siamo agganciati a una chiesa in particolare. Mm-hmm. Ma quando qualcuno ci ha chiesto di animare il servizio lo abbiamo fatto ben volentieri. Un matrimonio, un battesimo, matrimoni e battesimi, ma anche la messa, anche la solenne messa della domenica. È capitato diverse volte e anzi devo dire che con grande successo la gente veramente dà tantissimo. Ma tu li vedi quei film meravigliosi sono in piedi, ti avvicina moltissimo a Dio, sì, sì. Ovunque lui sia, La voce è quella, la voce arriva direttamente. Ed è questo il motivo per cui il gospel, più di ogni altro genere, è la voce del cuore e la voce dell'anima. Per sì. cui non si può dire a una persona: tu non lo puoi cantare. No, no, no, tutti possono cantare, ovviamente persone che sono del mestiere, un o che minimo comunque, di intonazione, una tecnica, certo. sì, una tecnica poi la vocale tecnica arriva dopo, chiaramente. Vuoi farmi sentire una così affascinante, sentirli dal vivo? Io veramente vi prego di sbagliare durante, perché la gente può pensare che è una registrazione. Ogni tanto l'errore è come al circo, il triplo salto mortale, fanno anche finta di sbagliarlo per far capire alle persone che uno si può far male, può succedere qualcosa, perché quando vedi dice vabbè l'ha fatto. Sentono queste voci così pulite, infatti ogni tanto intervengo anch'io per far sentire che siete vivi, do un pizzico al tenore, quindi la fa, capito? Per far sentire che esiste e sono qui. Che dici, caro Gianluca? Allora, dove ci vuoi portare? Io direi di intonare uno dei canti più celebri, poi dopo l'ascolto magari racconto anche un aneddoto che riguarda certo, questa... sei il padrone, sei tu il conduttore di questi momenti. Questa canzone qui. Ma mi prometti che tornerete, perché è un percorso lungo e affascinante. Vorrei molto volentieri continuare questo percorso della voce, visto che sta avendo questo bellissimo successo. E io ringrazio tutti i radioascoltatori, sono ormai centinaia di migliaia, e li ringrazio veramente di volerci così bene. Abbiamo trovato qualcosa che non c'era in questo percorso, nella voce in tutte le sue declinazioni, che sta affascinando. È bellissimo, davvero veramente molto molto bello. E poi anche ho seguito grazie a queste realtà le precedenti puntate, devo dire che abbiamo veramente, hai trovato un filone sì. straordinario, veramente è bello, perché bello. Poi veramente la voce è tutto. È comunicazione, è tutto. Gli effetti. È la prima forma di comunicazione. E allora portaci in questo mondo, dove ci porti, Gianluca? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. 'Twas grace that brought my heart to feel. Stavamo marciando ormai da anni in quella regione. Che bello, suggestivo da e morire. Ci sta benissimo. Sì, quelli sono i racconti. L'altro anno doppiarono, c'era Rossella a 12 anni schiavo, dove c'era queste situazioni. Sì, belle canzoni. Sì, in cuffia. Faceva dei complimenti. No, io faccio a voi i complimenti. Sbagliato. Avete sbagliato? Abbastanza. No, si sente che è live. Ci abbiamo provato. Anche perché lo studio non è costruito per dei live. Per cui io ringrazio veramente Valerio, che sta facendo i numeri a colori per quanto riguarda la declinazione su questi microfoni. Non è facile, non è. Eppure si sente bene, si sente il giusto. Allora, quando nasce il Seven Hills? Cioè, sta andando avanti. Avete fatto un CD un paio d'anni fa, un anno e mezzo fa, il primo, The First, poi è il primo. First, il primo. Per forza, il primo CD. E penso che passerà un po' di tempo prima di poterne realizzare un altro, perché chiaramente... Sono musiche tradizionali, ovviamente, oppure cose anche ricostruite, anche vostre, anche tue? Sì, sì. Sono autori contemporanei? Le canzoni sono... c'è di tutto, c'è dallo spiritual al gospel contemporaneo. Abbiamo, mi dicono, il CD, ce l'abbiamo il vostro, sì, qui. Sì, sì. Però ce l'abbiamo loro dal vivo, sai che c'è. Io non voglio farli sentire i registi. Come ho detto fino adesso, ce l'abbiamo dal vivo, mettiamo il CD. No, no. Sono viventi, non sono 40 46 come il coro, però insieme in questo studio fanno da 46. Stavi, parlami, possiamo intervenire e far capire che c'è comunicazione, avvicinandovi ai microfoni. Ha arrangiato molto bene quando abbiamo fatto il secondo anniversario della morte di Lucio Dalla, che siamo andati su a Bologna. E lui ha arrangiato una canzone bellissima. Che cosa avete fatto? In quando fummo invitati a partecipare a questo evento, mi fu chiesto appunto se era possibile cantare con il coro un brano di Lucio. E nel panorama di tutto quello che aveva scritto, siccome erano tantissime parole, alla fine la scelta ricadde sulla casa in riva al mare. Ah. Tema molto, molto dolce, quindi mi sono messo giù a scrivere. Qui non si può far sentire, vero? No, è impossibile, perché è orchestrato per varie voci. È un po' complicato, a cinque voci fu, però mischiai all'interno della struttura della canzone anche dei richiami ad altre canzoni che aveva scritto. E insomma, per noi poi fu una bellissima emozione, non solo per i familiari, poi ricevere anche i complimenti di un grande come Morandi fu assolutamente. Gianni è un altro grande entusiasta, io l'ho sentito adesso, era soltanto un po' impicciato con Baglioni in giro a farti Capitani Coraggiosi e con un'altra radio diceva verrei volentieri adesso, quello un bambino, ecco, quell'entusiasmo bisogna rubarlo, quell'amore per il proprio mestiere è straordinario vedere così, ed è quello, gli occhi si vedono anche dai tuoi occhi, dai loro occhi, che c'è grande amore in tutto questo, anche perché oltre l'amore è vero che non si cambia in banca, non te lo cambia, non te danno il mutuo perché tu porti tanto amore, però questo porta veramente a fare bene il mestiere. Mi hai detto che stavi raccontarmi un aneddoto legato alla canzone che abbiamo ascoltato prima. Era la celebre Amazing Grace, che oggi è utilizzata in tantissime cerimonie ufficiali. Fu scritta da John Newton, che nella vita in realtà faceva il mercante di schiavi. Lui navigava e faceva su e giù tra l'Africa e le coste del Nord America. Si era veduto, che è successo? Sì, è stata una grazia meravigliosa che attraverso una grande tempesta in mare, durante la quale insomma se l'è vista brutta, ha cominciato a pensare che forse il suo cammino non era proprio quello esatto. Finché, lo dice proprio nel testo, io l'ho capito perfettamente, però traducilo per i nostri amici. Once was lost, but now I'm found. Ero perduto e adesso sono ritrovato. Ero cieco e adesso vedo. E queste conversioni sono tante nella storia. Assolutamente. Qualcuno doveva farla ma non l'ha fatta, qualche occasioni leader, mancate. Occasioni mancate da parte di qualcuno che ha veramente esagerato. Qualcuno se ne accorge che sta sbagliando e torna sui propri passi. E questo è bello, insomma. Allora, voi rimanete ancora un po' con noi, eh? Non ve ne andate. Me lo dite armonizzato questo sì va bene, oppure il nostro basso, sentiamolo da solo. Sì va bene com'è? Sì va bene, no, rimaniamo volentieri. Da basso, così. Sì. Da basso io direi sì, va bene. Tu di dove sei di origine? Di Napoli. Di Napoli. Cioè, tutto sembrava meno di Napoli, giù. Ehi, ci sentite la voce? No. Songoro Vombra. Eccolo che c'è fuori. Invece la nostra dolce amica, contralto? Sì, va bene. Di dove sei? Sono della provincia di Bari. Di Bari. Ce ne fosse uno, se venirsi, sette colli. Sono un emigrante. Sei un emigrante, no, che non possiamo viaggiare, come dice il grande Massimo Troisi, perché però siamo solo emigranti. Vivo a Roma da 11 anni, quindi io allora ti abbiamo accettato. Sono adottata. Sei adottata da Seven Hill, grande Gianluca. Tu da dove vieni invece, amico mio? È Borgo Pio Monteverde. Borgo Pio Monteverde, sta qui vicino. E le nostre due belle signore soprano? Da Roma. Da Roma, sì. Da Monteverde. Cioè, siamo tutti in zona. E lei, bella signora, o tu? Io diamoci. Da Roma. Da Roma, certo, no, ci ha pensato un attimo lì da Roma. Tu sei romano invece, Gianluca? Romanissimo. Sì, romanissimo. Romano. Non chiediamo la squadra perché questa è una trasmissione che c'è. No, durante... perché non ti farebbe piacere. No, durante... no, ma io... si vive in una società multilaziale, ormai bisogna accettarlo. Dall'altra parte non so i risultati e spero di non sentirli fino alla fine. Questa è una trasmissione per la domenica, mi evita la sofferenza domenicale di ascoltare le partite e a molte persone gli facciamo veramente tanta compagnia. Tra pochissimo ancora con il nostro Seven Hills Choir, Gospel Choir, e con Radio 24 e Voice Anatomy. A tra poco. Voice Anatomy. Bentornati signori, Voice Anatomy, sono le 15:46 minuti e 55 secondi, siamo sempre qui in diretta dagli studi di Roma di Radio 24, il nostro numero verde per partecipare in diretta se volete unirvi al coro dei nostri amici, che crea un po' di imbarazzo perché unirsi a questo coro è veramente complicato se non per un grande professionista. Comunque 800 24 00 24 il numero per i vostri sms, sempre molto numerosi. Qualcuno non posso leggerlo perché è andata via Rossella, molti vengono durante le esibizioni, però continuate, io qualcosa farò. 349 238 6666. Qualcuno mi dice grasse per la spiegazione di Kumbaya, spero di averlo scritto bene. Sì, caro Arturo, tutto a posto e ti ringrazio della tua mail di elogio e di scuse, ma non c'era bisogno, assolutamente. Ci sono anche degli ascoltatori che ci indicano delle persone da invitare, anche magari che noi non conosciamo. Se vorrai potresti invitare Ludovico Versino di Roma, doppiatore, fondatore, direttore di Cori, conoscete? Sì, come no, Dodo Versino, certo. Dodo Versino. Salutiamo. Ah, lo conoscete, personaggio interessante, lo conosci già, come trovarlo, altrimenti su sito Armonisti Anonimi, allora lo conosco anch'io, Dodo. Sì, sì, un saluto Livio da Roma, sicuramente, cioè, Pietro, come dici, della voce di Isabella Gossi Pedigrotti, che fa pubblicità su Radio 24, ciao, bravissimi, Gianni da Milano, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, abbiamo ancora un po' di tempo con voi perché il percorso è veramente interessante. Portaci per mano, prendimi per mano, caro, fammi da conduttore, caro, caro Gianluca. Dove mi porti con questo coro? E soprattutto cosa ascoltiamo nel tuo percorso? Allora, dove vogliamo andare? Dimmi. Siamo partiti dalle origini. E quello ci stai facendo conoscere le origini, lo spiritual, la prima tratta degli schiavi, dall'Africa ovviamente, dove nasce tutto il movimento spiritual e poi è divenuto gospel. Ci hai raccontato di questo coro a risposta che poi esiste ancora con i grandi sermoni eccetera, abbiamo parlato del vostro primo disco, ma il secondo arriverà non si sa fra quanto. Dove andiamo adesso? Mai dire mai. No, assolutamente, assolutamente. Chiaramente abbiamo anche delle contaminazioni di musica contemporanea, ma è giusto anche allargarci a quelli che hai nominato proprio all'inizio della trasmissione. Quindi questi vari nuovi reverendi, assolutamente sì, perché comunque hanno una musica particolarmente trascinante. Sì, poi non riescono a essere anche funky all'interno del gospel, ormai sia una continuazione proprio moderna. Ti ripeto, prima che il Franklin portato in chiesa Mary J. Blige o R. Kelly o Bono, è ovvio poterlo fare magari anche noi con i nostri, tu hai nominato prima Gianni Morandi o i Baglioni o i nostri cantanti italiani all'interno di un coro gospel, sarebbe fantastico. Sarebbe molto bello, anche se poi personalmente per le finalità che ci proponiamo noi cerchiamo sempre di fare una selezione nei brani di musica, sì, contemporanea. Non tutti si prestano non tutti raccontano qualcosa che si può essere, esatto, raccontata nel esatto coro gospel. Cioè, non cioè puoi... sta prevalendo l'aspetto commerciale e sempre meno quello spirituale. Da dove parte, è vero? Da dove parte? L'anima non la puoi perdere in un racconto. E tu mi dicevi portami per mano, ma in effetti noi è quello che facciamo. Abbiamo aperte collaborazioni con tantissime associazioni di volontariato. Ne cito forse la più importante, la comunità di Sant'Egidio, con i quali abbiamo fatto Cities for Life al Colosseo per 4 anni, il bello giorno del 30 novembre. Con Max Giusti, sì, Max, poi caro amico. Qualche domenica fa siamo stati al carcere di Paliano. Quello per portare lui, no? Per portarlo all'interno. Siamo andati a portare in carcere. Siamo andati a portare il nostro messaggio anche lì. E quindi questa esperienza ci mette a contatto con delle situazioni umane, un arricchimento continuo. Quindi sarebbe non solo... però pure cercare all'interno del mondo del carcere, che io frequento per altri motivi, vabbè, non sto qui a raccontarlo, ma sarebbe bello anche cercare fra loro delle voci interessanti per creare magari un piccolo grande coro all'interno del mondo carcerario. Questo c'è, se ne può parlare. C'è chi lo sta già facendo. Ah, c'è, esiste già una situazione. Sono tra l'altro dei nostri amici del coro di Telti in Sardegna. Uh-huh. E questo sta succedendo nel carcere in Sardegna oppure sta succedendo nel carcere, aiutami, di Nukis, mi sembra. Nukis, sì, e tra l'altro un nostro comune amico americano, Nogai Giddings, li sta seguendo come tutorial. Allora, guarda, farò da veicolo io per quanto riguarda invece Roma. Sono vicino anche alle altre carceri. E magari proverò a chiedere al DAP, ai responsabili, se magari riuscire a fare una cosa del genere, una formazione all'interno del mondo carcerario potrebbe essere molto interessante, perché molto all'interno bello del mondo carcerario si nasconde, a parte le persone che sappiamo perfettamente per quali motivi sono lì, altri magari non lo sappiamo, altri dovrebbero esserci, non ci sono. Noi invece cercheremo di costruire magari lì all'interno. Chiederò e ti farò sapere, lo dico pubblicamente di fronte a questi microfoni che proprio hanno una eco poi abbastanza grande per poi dirarti, non puoi tirarti più indietro. Ma assolutamente, una volta che hai parlato a questi volentieri, microfoni. A noi fa sempre molto, molto piacere portarti. Che mi fai ascoltare prima che andate via, mancano 5 minuti e voglio avervi invece per tantissimo tempo. E dopo abbiamo la grandissima Giuliana Lo Iodice in questa giornata ricca di voci importanti. Allora vogliamo invece passare a un qualche cosa, li abbiamo nominati i moderni, Donnie McClurkin. Ah, Donnie McClurkin, ah, grande. Però un brano magari tra i meno conosciuti, We Worship You. Mm? Ah, c'è l'intonazione. We worship you, Lord. We live in your holy name. We worship you, Lord. The victory we proclaim. We give you all the glory. We love you, we live for you. We worship you. We worship you, Lord. We live in your holy name. We worship you, Lord. The victory we proclaim. We give you all the glory. We love you, we live for you. We worship you. Human sun, moon and stars, all the earth below. All creation stands to see your praise. All the majesty, glory, dominion and power. Now and forever, Lord, belong to you. We worship you, Lord. We live in your holy name. We worship you, Lord. The victory we proclaim, we give you all the glory. We love you, we live for you, we worship you. We love you, we live for you, we worship you. We love you, we live for you, we worship you. Yeah, bravi, complimenti. Manca l'applauso che siamo abituati noi che facciamo dei performer. Non c'è finto? Eh? Non ce l'abbiamo finto? No, c'è, no, ce l'abbiamo finto, ma è venuto, viene dal cuore. Viene dal cuore del nostro, dal nostro studio, perché serve, da il ritmo, l'applauso a chiunque di noi fa, perché il silenzio fa sembrare non è piaciuta a nessuno sta cosa. Invece, vabbè, siamo per radio. Bello, sì, non la conoscevo questa di McClurkin. Bravissimo anche lui, ma ce ne sono tanti contemporanei ma li percorreremo, sì. Li percorreremo insieme, perché è bello, è un mondo veramente sconosciuto e amato, come quello del doppiaggio, che molta gente lo ama ma non lo conosce, ed è veramente, ti apre il cuore, ti porta veramente per mano ovunque. Il gospel io metterei veramente per legge a domenica in chiesa. Noi ci stiamo provando veramente. Esatto, adesso incontri Papa Francesco, ti ripeto, utilizza questa occasione, altrimenti andrai nel coro sardo del tuo amico in carcere laggiù e canterai per loro, fai come i Blues Brothers, che alla fine finisce per fare i loro concerti rock all'interno del mondo del carcere. E chi può dirlo? No, ve lo auguro davvero. Signori, mancano soltanto un minuto per stare insieme, lo utilizzerei per salutarvi e ringraziarvi. Arrivano molti messaggi, caspita, sono bravi, sì, ci sono tante persone brave in questa nazione straordinaria. Cerchiamo di spezzare veramente una lancia a favore del bicchiere non mezzo vuoto, ma mezzo pieno, ma soprattutto tre quarti pieno. Si parla sempre cose negative su quelle che fanno notizia. Parliamo di cose belle, anche dello stesso ambiente. Dall'altra parte mi fanno dei cenni che manca pochissimo. Sì, va bene, io volevo veramente complimentarmi. Gianluca, grazie a te di aver se così. Posso veramente... Devi, 10 secondi... Utilizzali tu, certo. 10 secondi per piccolo spot nostro. Assolutamente, dimmi, avete un sito dove siete. Abbiamo il sito internet, sì. www.7hillsgospel.it. 7hillsgospel.it. 7 hills con l'H. Ecco, 7 a numero. 7 a numero. Hills con l'H, I-H. H-I-L-L-S gospel.it gospel, no Godspell, ma no, gospel gospel, che non è altro che l'acronimo di Godspell, esatto. Lo racconteremo la però prossima per volta, esatto. Assolutamente. Poi anche la pagina Facebook, sì. Seven's Gospel Choir. Choir, si dice choir, non choir, choir. O choir, dai. E poi l'ultima cosa, perché noi periodicamente per aggiornamenti vocali organizziamo un workshop a Roma che si chiama Corosseum, quest'anno. Dove lo farete? L'edizione 2016 la faremo nella presso il plesso parrocchiale di Sant'Aquila e Priscilla intorno a Viale Marconi, sì. E ospite sarà un personaggio molto particolare, perché non è di colore ma è norvegese. Addirittura. Si tratta di Wilhelm Haas, Thor Wilhelm Haas, che è il direttore, niente poco di meno, che degli gli Oslo Gospel Choir. Ma bella questa, un coro riunione. Che in Europa e nel mondo ha venduto milioni di dischi. E allora, per sapere di più, ovviamente avete detto il vostro sito, la pagina Facebook. Questo è il Seven Hills e questo è Gianluca. Grazie, ma ci rivediamo. È una promessa, grazie. È una minaccia, grazie. Per quanto vi riguarda. Attenzione, a tra poco con Voice Anatomy. Grazie. Grazie. Digital Radio Flash. Flash. Ciao, sono Alessio. Ma la Digital Radio è una nuova radio? No, è un sistema nuovo per sentire la radio che ami con una marcia in più. Molte radio trasmettono già in digital, come questa per esempio. Ci puoi ascoltare con un suono perfetto. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da Unica. L'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Voice Anatomy. Bentornati signori a Voice Anatomy, qui sempre Pino Insegno in diretta dagli studi di Radio 24. Anche oggi un percorso emozionante, è cominciato con la nostra amica Rossella Cerbo del mondo del doppiaggio, per continuare poi con il mondo del gospel, dove la voce la fa da padrona. E ora al mio fianco sono molto emozionato perché mi ha raggiunto una delle signore più importanti, perché signore con la S maiuscola, più importanti del teatro italiano e non solo. Quanti anni di carriera non voglio dirlo, sono tanti, sono importanti e sono ancora lunghi. Sono, mi fa un cenno con un 6 e uno 0, sono 60 anni di vera Empulse, come dicevamo prima, e nella quale si è cimentata con i testi degli autori più disparati, più importanti e autorevoli del panorama artistico italiano e internazionale. E signori, ho il piacere e l'onore di scambiare due chiacchiere insieme a voi con la grandissima Giuliana Lo Iodice. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a te in particolare, grazie dell'onore, ma soprattutto il piacere. No, no, il piacere è assolutamente tutto nostro, perché è bello, quando abbiamo avuto la prima puntata Giorgio Albertazzi, che ci ha dato l'in bocca al lupo dalla voce forse più grande, grande, grande Giorgio, un bambino. Pazzesco. È un bambino di 93 anni. Sì, è un attore, è un uomo anche straordinario, è un uomo straordinario, sì. Senti Giuliana, noi vogliamo conoscerti bene, vogliamo conoscerti, ci vorrebbero un po' di trasmissioni, ma sicuramente parteciperai ad altri momenti insieme a noi. Ma se ti dovessi chiedere proprio chi è Giuliana nel suo aspetto più personale e intimo, tu cosa mi risponderesti? Ma Giuliana è un bulldozer. Ecco, sei una donna così determinata come appari. Sì, sì, sì, senza dubbio, e sono stata un bulldozer da quando avevo 14 anni, ecco il perché dei 60 anni di lavoro. E com'è nata questo fatto di essere un bulldozer? Lo eri già da prima fino ai 13 anni e poi a 14 anni hai cominciato a fare, sì, questo mestiere. Sì, sì, sì, ho cominciato in un modo straordinario, con Visconti, ecco. Dopo aver subito un destino strano, dovevo cominciare col cinema e poi invece la mia strada ha preso questa addirittura differente, di cui oggi ringrazio Dio, perché il cinema mi interessa, ma fino a un certo punto. Il teatro per me è stata una cosa assolutamente basilare in tutta la mia vita. Il teatro, quando era scritto con la T maiuscola, la E maiuscola, la A maiuscola, la T maiuscola, la R e la O maiuscola. No, ma io non sono una revanchista, capito? Non amo parlare dell'altro ieri, parlo mi piace parlare ancora di oggi, dell'oggi, perché, ma tuttora sì. Vieni da successi importanti, sì, per sì, cui sì. Non è che parliamo purtroppo di ieri. Purtroppo anche da sola, perché Roldo non c'è più dal e ne parleremo di Roldo 2006, ieri. Però ecco, io non sono una nostalgica, hai capito? E preferisco guardare oltre, anche se in questo momento io ho bloccato la mia situazione teatrale, perché sono reduce da momenti che hanno acuito la mia attenzione su un certo panorama che assolutamente non mi piace più in teatro. Non ti riconosci come è gestito il teatro? No, assolutamente no. Non ci sono più i direttori di una volta, come si dice, non ci sono più le mezze stagioni, ma non ci sono più neanche i direttori di una volta. La possibilità di questa osmosi fra i grandi teatri italiani, sì, di partecipare, di condividere soprattutto, sì, spettacoli importanti fatto da persone importanti. Non c'è stato, devo dire, un ricambio generazionale, sì, e lo dico contro il mio interesse. Sì. Io ho sempre recalcitrato davanti all'idea di entrare nei teatri stabili. Ho sempre pensato, forse arbitrariamente, che non mi piaceva timbrare un cartellino, né a me né ad Aroldo, e quindi abbiamo evitato accuratamente di entrare negli stabili, che io contesto, perché credo che assorbano nel bacino del teatro italiano troppi soldi e ne tolgano tanti a delle compagnie private che meriterebbero di essere alla loro altezza. Ecco, ci vorrebbe magari una commissione più attenta, sì, per, sì, valutare chi, dove, come dare, perché sì, sì, è vero quello che dici, è importante un teatro stabile perché produce eccetera, ma molti soldi vanno via, è vero, magari, sì, per una grossa produzione che sta in piedi soltanto pochi mesi o addirittura pochi giorni, certe volte è nello stesso teatro, e non dà magari la possibilità, sì, è questo che ha affermato anche, se vuoi, il rinnovarsi della tradizione teatrale, il rinnovarsi di nomi enormi. Le ditte di una volta tu vedevi, lo Iodice, Thierry Lo Iodice, sì, la Rina Morelli, Rina Paolo Stoppa, Morelli Stoppa, Gino Cervi, Andrina Pagnani, Renzo Ricci, Eva Magni, signori, parliamo di persone che insomma hanno stabilito un rapporto col pubblico, per cui bisogna ma anche ancora anche Paolo Ferrari, Valeria Valeri, ma certo, bisogna ancora, cioè, alzarsi in piedi di fronte a questi personaggi. Eh sì, io infatti non mi alzo mai, come se stessi in piedi di fronte a te. Per cui è cominciata a 14 anni col grande Luchino Visconti. Sì, come nata? Sì. Vieni da una famiglia che ha una... No, la mia mamma era un'insegnante di lettere e mio papà era un avvocato che poi è diventato dirigente dell'INAIL. Però la mia mamma aveva una peculiarità. Aveva studiato musica, pianoforte, con signori, ricordiamoci chi era, chi studia pianoforte lo sa benissimo, Pozzoli. Pozzoli è il capintesta dell'inizio del pianoforte e viveva a Milano. Mia mamma era milanese, mio papà era di Corato, pugliese, per cui la mia origine è pugliese. Tu sei nata a Bari, infatti. Io sono nata a Bari, sì, e la mia mamma invece era milanese, Cattaneo, per cui più milanese di così non si può. Non si può. E la mia mamma avrebbe voluto farla concertista. Evidentemente aveva in sé i prodromi di un'intellettualità e di una tendenza all'arte che ha profuso sia in me che in mia sorella Leda, che è stata una grande danzatrice, sì, classica. Lei è dallo Iodice, insomma, sì, non dimentichiamo. Qualcuno forse la ricorderà stanziando il film Casanova di Fellini, dove lei ha inventato la bambola meccanica. Era lei, è vero. Sì, sì. Guarda, rimango anch'io, è vero, lo sapevo perfettamente, l'avevo un attimo accantonato. Grande, grande Leda, grande perché, Leda. Vedi, questo è l'esempio dove non c'è il figlio, la sorella d'arte, cioè sono due entità staccate. Lei dallo Iodice per me non è, sì, la sorella di Giuliana Lo Iodice, è una grandissima grande danza. Adesso ha rinunciato alla danza, data anche lei per, diciamo, per qualche tempo passato ormai, e fa la grande coreografa in, sì, tutto il mondo. E dunque io dico sempre scherzando, beh sì, a me la carriera mi ha riservato sì Milano, sì Roma, sì Padova, però vado anche a Terni, a Viterbo, certo, non sai, capito? Mentre ovunque. Tu vai a Los Angeles, vai a New York, a Parigi, vai, adesso è reduce due volte da Pechino, per esempio. Lei è più grande di più giovane? No, è più giovane leggermente, siamo tutti di due anni in due anni, e ho altri due fratelli, Gianmaria e Giacomo. E loro invece hanno sdirazzato oppure come? Gianmaria è stato un grande proprio nell'hi-fi, è stato il creatore con altri colleghi della grande ditta che si chiamava Galactron, che ha lanciato la quadrifonia. poi è entrato in una bellissima rivista che era Satellite, mm-hmm, e si è occupato di questo. E adesso è un uomo di età e quindi non fa niente, e mio fratello che è l'altro invece, dietro i calci nel sedere di mia madre, ha fatto l'ISEF, per cui è diventato professore di ginnastica. Quello anch'io, siamo colleghi, pensa, nonostante non si direbbe dal mio corpo, ho fatto l'ISEF perché mi permetteva, vedi, a parte che il mio cognome Insegno mi aiuta a essere un professore, ma mi permetteva di fare insieme al mio amico e collega Ciufoli, abbiamo fatto tutte e due l'ISEF, sì, perché ci permetteva poi di pagarci il nostro teatro. Cioè il giorno, vedi, facciamo supplenza a scuola, il pomeriggio qualche ora di ginnastica nelle palestre, la sera ci pagavamo, bellissimo, il nostro teatro, quando ancora bellissimo non ci dava da vivere. È vero che comunque il teatro resta sempre comunque come il delitto, perché non paga, ti paga dal punto di vista emozionale assolutamente meglio di qualsiasi altro. No, ma il teatro sei nudo, sei lì, lo dico sempre, la gente quando ti viene a vedere toglie la macchina dal parcheggio sotto casa, la deve trovare vicino al teatro e devi ritrovare il parcheggio sotto casa. Se l'hai tradito non ti verrà mai più, no, a mai vedere più. Ma sì, per sì, questi vero, sono i motivi più importanti. Beh, un percorso iniziato con Giuliana, che ovviamente qui ti fanno tanti complimenti, neanche abbiamo cominciato l'intervista e la gente ti osanna. E poi dice, sì, è vero quello che dice la signora Loiodice, dice, non solo nel teatro ma anche nel mondo scientifico c'è una grossa crisi e non c'è stato il ricambio. Sì, c'è una situazione di questo genere un po' dappertutto, ma cerchiamo di essere ottimisti. Sì, ottimisti, sì, sì, finché... io penso che bisogna assolutamente, perché se no, se ci scaviamo la fossa con le nostre mani, voglio no, dire, no, assurdo, noi continueremo, no? Come continua la nostra trasmissione, rimanete con noi, perché Giuliana Loiodice ha appena cominciato a raccontarci la sua storia. Tra pochissimo con Voice Anatomy. Anatomy. Eccoci, come promesso siamo tornati subito con Giuliana Loiodice, con la quale ricordavamo in questo momento, questo piccolo momento, anche altri momenti della sua carriera, che è veramente polivalente e in tutte le declinazioni possibili. Parlavamo di un festival di Sanremo che lei ha presentato. Come no, che anno era? 64, quando vinse Gigliola Cinquetti. E che non aveva l'età. Che non aveva l'età, era veramente, aveva 16 anni, era sì, deliziosa. Era. E lì, insieme a Mike Buongiorno. Che non era altrettanto delizioso. Si può dire, anche se non ci sono più, per grande carità, professionista, perché non ho grande rispetto. Che ha avuto una carriera certamente non marginale nella nostra... No, importante, però difficile, difficile come... Che cosa no, voleva da te? Perché... Ma lui voleva assolutamente relegarmi al ruolo a cui era abituato, di valletta. Valletta. E io mi imposi immediatamente, dico, senti, guarda Mike, se io sono qui è perché ho una popolarità forse più grande della tua, altrimenti la Rai non mi chiamava. Sì, quindi perché... o la smetti e io presento come te, oppure me ne vado. E in quell'occasione devo dire che la Rai mi ha difeso, dice no, Giuliana resta. E mi sono ritrovata con un DVD recente che mi ha mandato un ammiratore, mm-hmm, dove alla terza puntata, perché c'erano solo tre puntate in bianco e nero, mm-hmm, c'ero solo io. Per cui era mai che dice tu si mi stai relegando. Caro, stai calmo, perché... Ma ti dico che poi, tutto sommato, rivedendo il DVD, mi sono resa conto che i ruoli non erano così definiti e definitivi. Cioè, noi presentavamo il cantante e il direttore d'orchestra. Esatto, e quello basta, doveva essere. Però lui non mi concedeva nemmeno questo. Ah, no. E allora mi sono veramente arrabbiata. È successo un po' quello che è successo con Loretta Goggi, quando sì, ha fatto... Sì. Lui pensava di relegarmi a quel ruolo, ho detto no, mi dispiace. Io non sapeva che eri un trattore. Avevo solo 24 anni. Eh sì, ma venivi già da una storia importante artistica, anche sì, perché gli sceneggiati dell'epoca, sì, voglio ricordarne uno su tutto, era giocando a golf una mattina. Non era solo tu, quello, no, ma ci tengo tanti di più a una tragedia americana. Una tragedia americana straordinaria. E al Conte di Montecristo. E cioè qui sono stati i fondamenti dei romanzi sceneggiati in tuttora televisione. Tuttora, quando erano visti veramente da 20-25 milioni di... È vero, mamma uno mia, dice c'era solo la Rai, sì, è vero, però la gente poteva scegliere, non guardarla. Pensa che per la tragedia americana misero i televisori nelle hall delle sale cinematografiche, perché la gente comunque, anche se andava al cinema, voleva vedere come andava avanti la tragedia americana. Eh sì. E fu un sogno proprio, io divenni di una popolarità. Mi raggiungevano anche delle lettere di ammiratori che volevano sposarmi, non consci del fatto che avevo già due figli. Tu eri già sposata con due figli. A voglia. Allora qui vengo alla domanda più bella, nel senso che ovviamente abbiamo parlato dell'accoppiata vincente durata... molti anni, 40 anni, quanto è durata con Aroldo Thieri? I figli li ho avuti con Mario Chiocchio, con Mario che era Chiocchio, un produttore che ho conosciuto anch'io. È una persona adorabile, e però è finita presto, succede nella vita. Come vi siete incontrati con Aroldo? Come è successo? Con Aroldo è successo in televisione, in ascensore. Certo. Beh. In ascensore, io ero una ragazzina proprio, meno male che non giovane... mi ero ancora sposata, quindi avevo meno di 24 anni, e lui il primo complimento che mi fece era estate, mi fece: che bei piedi che hai. Beh, complimento del genere è anomalo, potevi fartela a piedi, è salito, piedi è salito. Meno male che tu, nonostante eri giovane, non hai fatto le scale, perché se facevi le scale non avresti mai incontrato Aroldo sull'ascensore. Poi ci siamo incontrati a Siracusa, facendo Antigone, con la regia di Mario Ferrero, un grande regista, che poi ci è stato vicino per tanto tempo, e a Siracusa è nata questa follia, che è durata per 40 anni. Sì, solo 40 anni. Solo 40 anni. Ma lui era più grande di te? Lui era molto più grande di me. Io avevo 25 anni e lui 50. Lui ci ha salutati poi a 93 anni, insomma. Sì. No, doveva ancora fare 90 anni. Ah, 90, scusami, 89, scusami, 89. A me sembra impossibile, ma sono già passati 10 anni. Se n'è andato nel 2006 e io ho vissuto una favola. Ma sai, tu sei qui e... essendo tu, c'è anche lui. Sì. Cioè, non è una cosa soltanto filosofica ma o romantica. Certo, tu lo tieni vivo, perché il tuo nome è legato imprescindibilmente a quello di Aroldo. E non mi dispiace, ma non perché tu dipendi da lui, è lui che dipende da te e certo. Tu che dipendi da lui. Adesso lui molto dipende da te. Lo so. Però siete legati ed è nato un rapporto. Tu hai portato un libro bellissimo che mi hai detto purtroppo non si trova. E non si trova più. Con buonasera tanto di Aroldo, buonasera Giuliana. Ed è stato fatto da Anna Testa, che è stata bravissima prima che Aroldo se ne andasse, proprio l'anno prima. Infatti Aroldo non ha visto la nascita di questo libro, veniva a casa e ci intervistava. Attraverso le interviste che lei ha registrato è nato il libro, dove lei ha parlato della carriera precedente di tutti e due e poi piano piano della carriera insieme, e così dell'arrivo a quel momento in cui Aroldo poi se n'è andato. Tu vuoi leggermi qualcosa di questo libro? Ti hai ripreso degli appunti? O... ma ti dirò, perché... io ci tengo a citare dei personaggi che ho avuto vicino e a cui penso insistentemente. E vorrei che tu ce li ricordassi. Beh, insieme, perché ci sono dobbiamo stati mai dimenticare. Appunto dei registi tipo Ferrero, dei registi tipo Sciaccaluga, un regista basilare per noi due che è stato Giancarlo Sepe. Beh, un grandissimo. Io ho adorato. Io lo adoro perché il mio il teatro d'avanguardia, fra virgolette, quando è nato il teatro di ricerca, io andai a vedere questo Accademia Ackermann in un piccolo teatro di Roma, la Comunità, se non sbaglio, e rimasi folgorato da questa regia innovativa per anni 70. E ancora quest'anno, anzi l'anno scorso, per dirla tutta, lui è stato il mio regista di elezione nella professione del signor Warren, perché ho detto: se devo fare questo testo, che molti penseranno, Dio, la Loiodice torna al teatro tradizionale di conversazione, il teatro borghese, eccetera, eccetera, no? E io ho voluto invece Giancarlo, che ha fatto della Warren un personaggio strepitoso e ha avuto un successo pazzesco. Purtroppo ha segnato anche la fine della mia presenza, o perlomeno per il momento, la fine al Teatro Eliseo, che è stato chiuso e poi riaperto per note e vicissitudini. E oltre ai registi, io voglio ricordare degli attori straordinari con cui ho lavorato, per cui Salvo Randone, prima di Aroldo, per cui Enrico Maria Salerno, per cui Marcello Mastroianni. Cosa hai fatto con me? Ah, ciao Rudy! Ciao Rudy! Per me quattro palmi di terra in California, dove il sole rassomiglia al sole mio, dove io coltiverò una rosa nell'attesa che un giorno arrivi tu. Ah, e insomma è emozione. Stato un'emozione Trovaioli, grande Trovaioli, Garino e Giovannini. Sì, per cui tu hai veramente saltellato. No, io ho spaziato. Cioè tu spassi da Visconti a Garino e Giovannini con grande semplicità, e da Sepe. Mi piaceva da morire, soltanto che io ho incontrato... Com'era Marcello, scusami, Marcello. Perché io nel mio spettacolo... spettacolo, non voglio fare pubblicità, ma fra un po' la farò, perché dal 4 sono in scena con il teatro e il cinema e la televisione che non c'è più. Ecco, un allora discorso... io sono presente, verrò a trovarti. Tu sei presente perché sei in platea. Esatto. Quelli che sono sul palco... Ma potrai anche interpellarmi se vuoi. Sì, alla fine lo farò, perché quelli che saranno sul palco con me non ci sono più. E tu, ringraziando Dio, ci sei ancora. No, no, vengo, per vengo. Cui ti chiamerò ti degnerò dell'applauso. Venite, perché sarà una cosa al Teatro La Cometa, molto bella, affascinante, romantica, con un gruppo di vocalist che hanno conosciuto anche qui Barahona, con una danzatrice in scena, e percorreremo questa cosa con grande romanticheria, ma anche grandi sorrisi. Quando questo accade? Questo dal 4 febbraio al 14. Bene, tu mi stai intervistando, sto facendo pubblicità. Si è girata la conduttrice Giuliana Loiodi, ci ha avuto ospite Pino Insegno, che bello questa, grazie. Insomma, dicevamo di Marcello. Com'era Marcello per Mastroianni? Me è un amore grande, perché noi eravamo 13 donne e solo lui uomo. Che poi non si sentiva questo bell'uomo, eccetera. In che senso non si sentiva? Non si sentiva bello. Lui ha sempre detto nelle interviste: non mi considero un sex symbol, non mi considero sì, quello infatti, che dicono gli altri. Le donne mi fanno infatti, la corte, ma io non, cioè, sì, non è che rifuggiva dalla corte. Lui si definiva un faciolaro, perché a lui gli piaceva mangiare pasta e fagioli, parlava romanesco. Sigaretta a tutto spiago. Quando l'ho conosciuto c'era una sigaretta in bocca, anche quando si addormentava c'era una sigaretta. Era un amore. È successa una cosa particolare. Qualcuno mi ha raccontato, un uccellin mi ha detto di una serata particolare, un grande cantante americana che è venuta ospite. Sì, è venuta di... Barbara Streisand. Niente, una vocalist. Una cosetta. Che avremo presto ospite a voi sanato. Io che adoravo Barbara Streisand, ebbi la sorpresa di venire invitata a cena da Marcello con lei, perché mi disse anche: senti, vieni a tenere compagnia, perché questa è una tigre, io ho paura che mi si magna. Proprio con il gergo Marcello più spericolato. Ti ha voluto, sì, voluto a cena perché aveva paura che la Streisand ci provasse con lui. Ma sai dove ci ha portato? No. Mica al Sanssouci, no, data la presenza da di Felice Attestaccio, no? No, ci ha portato al Pallaro. Al Pallaro, a Piazza del Pallaro, a mangiare quello che si mangia a casa. Che quello sei... che si mangia in casa. Senti, poi ha detto: ha lavorato con Visconti, ci ha portato dal Pallaro. Non sei nata a Bari, sei nata a Testaccio, Giulia. Cari, cari, io ho questo ricordo di Marcello, e ogni tanto mi fa una malinconia struggente sapere che non c'è più. Perché Marcello è stato con ognuna di noi nel Ciaudi una cosa particolare, ha dedicato ad ognuna di noi un'attenzione diversa, a seconda del nostro carattere, a seconda della simpatia che gli... Senza che doppi sensi, guarda, senza doppi... Un amore, un signore. Un amore, un amore. Io è un grande professionista, tu dovevi vedere come si applicava, come faceva le lezioni di danza, come... Sì, perché lui non era né un cantante, no, né un ballerino, e infatti ballò un aveva tango paura. Strepitoso con Barbaria, c'era questa straordinaria danzatrice Marisa, che io ricordo, e fece un tango strepitoso. Purtroppo allora non c'erano le riprese televisive, sì, non c'è, ci non fu esiste. Soltanto una sua partecipazione, mi pare, a una domenicaina, un qualche cosa, non un ricordo, sabato sera, canzonissima, non so, e che lo ritrasse in questo tango, e noi non fummo nemmeno presenti, certo, tutte quante, perché sarebbe stato un ricordo veramente incancellabile per la Rai. Non è voluto andare neanche a fare la tournée all'estero, sapevo, no, era uno stanziale, no, peggio di me. Io non ce vado. Ciao, si inventava un film con Fellini, no, e doveva rimanere. Sì, e pagò più di 100 milioni di lire allora. Ma dai, perché? Di penale a Garinè e Giovannini, che volevano portarci a Broadway. Certo. Non accettò nemmeno di andare a Broadway. Era proprio uno pantofolaro. Però come si dice, questo non ha assolutamente pesato sulla mia nostalgia di lui, anche se l'avremmo menato in quel periodo. Però era un uomo eccezionale, un uomo amoroso proprio. Mentre di questo DVD purtroppo non se ne ha traccia, del tuo e di Haroldo, e mi dispiace, ma cercheremo in qualche modo di informarci. Invece di Marcello c'è questa bellissima intervista fatta dalla Tatò, da Anna Maria Tatò, che si chiama Mi ricordo, sì, io mi ricordo, che se lo cercate c'è un anziano Marcello che fa un'analisi della propria vita, ricordo, sì, ed è molto affascinante. Resta ancora con noi Giuliana, ci salutiamo per un minuto ancora. E concludiamo con te poi questa trasmissione, questa bella cavalcata insieme. A tra poco con Voice Anatomy. Voice Anatomy. Signori, ero leggermente distratto perché sto leggendo i vostri sms, sempre molto interessanti. Se volete partecipare, ovviamente potete anche telefonare in diretta, lo sapete. Ti prego, prolunga la chiacchierata con Giuliana, che bello ascoltarla, ascoltarvi insieme. Sono felice anch'io di ascoltarla. Che bello anche Oriana Fallaci intervistare personaggi importanti e famosi. Grazie, mi avvicinate alla Fallaci. Le interviste le leggevi in un libro. Giuliana, sei una grande. Mike ha sempre tentato di sminuire le bravure altrui. Complimenti Giuliana, ho visto la professione della signora Warren, cioè, complimenti a grazie. Non finire. Questi complimenti non ti fanno pensare, scusami, tu mi hai detto prima esordendo mi fermo con il teatro. E la gente non vuole che tu ti fermi. Lo so, però non voglio neanche io. Il teatro è diventato solo fatica, nel senso delle tournée pesanti, dure, e allora chiedo soltanto un po' di rispetto per tutto il passato e l'età che avanza, perché a un certo punto non si può più fare gli scavalcamontagna. Io li ho fatti anche volentieri. Sì, i debutti sono quelli che nel teatro sono i più difficili, perché tu c'hai sì 10 giorni a Bologna, ma poi c'è 10 giorni cambiando 10 città, diventa difficile. Sì, ma io ho nostalgia anche di certi posti che inaspettatamente invece offrivano una presenza di teatri ristrutturati, di gente entusiasta, per carità. Sì, arrivano i posti insospettabili. Io sono arrivato a Pietra Abbondante nel Molise. E ma non mi manca. No, però ti sei trovato in un panorama di un anfiteatro romano, antico, distrutto, ma bello. Ma soltanto che a Roma erano 30 gradi, lì era meno 10. Però anche quello era particolare. Le persone non sanno quanta gratitudine noi abbiamo avuto nei confronti di persone che hanno pensato di mantenere vivo l'impatto con il teatro per gli spettatori, rifacendo anche i teatri che erano crollati, che mancavano, eccetera. Però io non ce la faccio più, cioè sono arrivato a un certo punto che le valigie, i treni, le macchine, le cose, io non me la sento. Allora adesso è il momento dello stabile? È il momento del teatro stabile? No, di uno stabile, di una stabilità. Di una Giuliana stabile. Di una stabilità maggiore, perché io non me la sento più. E poi guarda, viviamo in un momento in cui i produttori mancano. Perché le persone con il danaro e qualcosa che supporti questa fatica estrema degli attori sono sempre più difficili da trovare, sì, non c'è un rientro. Io devo dire la verità che c'è questo Francesco Bellomo che mi ha supportato oltre il Teatro Eliseo anche con la professione della signora Warren. Anche a me, anche Francesco ha supportato e supportato anche me. Bellomo va conosciuto più da vicino, perché è una persona comunque entusiasta, e anche se ogni tanto ci sono delle problematiche lui cerca di risolverle con tanta fatica, però con tanta dedizione e con tanto amore verso il nostro teatro, mestiere. Lo dicevo prima, tanto è difficile, se perché non si incassa, cioè si incassa, ma i soldi vanno via, il 67% della serata va via per le imposte, per tutto quello che c'è. Poi si parla delle paghe e non gli ci affitti, si decide da un punto di vista ministeriale a creare una possibilità perché il teatro venga defiscalizzato. Sì, come nel cinema. Questo, perché lo fanno per il cinema e per il teatro no? Perché? Il tax credit nel cinema permette a una industria, un'azienda importante di scaricare il 50% dei soldi che investe nel cinema qualcosa anche in più, perché si trova il modo di scaricare qualcosa in più. Sarebbe giusto anche nel teatro, ma avremo modo, magari io conoscendo delle persone in questo momento al MIBAC, ci sono anche delle persone molto attente, però si sa, la nostra nazione è lunga a livello burocratico, e magari anche se al capo viene in mente un'idea bella, prima che diventi operativa deve attraversare varie stanze. Dovrebbe esserci uno solo che ci pensa. Dovrebbero essere tanti che ci pensano. Ecco, non pensare soltanto ai posti di lavoro che nei musei, piuttosto che non so dove. Il teatro non va di meno. Noi abbiamo inventato, siamo un popolo straordinario, abbiamo veramente inventato la musica, il canto, il teatro, cioè insieme agli altri in questo vecchio continente, ma noi siamo stati veramente un esempio per tanti. Perché dimenticarlo? Perché non provocare un altro effetto domino che possa costruire mille altre Giuliana Lo Iodice, altri Aroldo Thieri, altri Gasman, Manfredi. Speriamo. Manfredi, parlavamo prima di una cosa che mi ero dimenticato, e tu hai fatto anche cinema, perché a parte danzare, cantare con Garinei e recitare con Visconti e io tanti ne ho altri. Fatto poco di cinema. Sì, però ma cinema mirato. Oddio, sempre mi hanno cercato per delle cose particolari. Beh, ricordiamo il grande Scola che ci ha lasciato in questi esatto, giorni. Salutiamo il grande Ettore Scola, ecco, che ci ha dato veramente lezioni di cinema. Con cui ho fatto questo Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico scomparso in Africa. Sì, non la buttà così, che è un titolone lungo. Ma tu mi stai, sì, io ho fatto, sai, con Ettore Scola, cioè Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa, con Alberto Sordi e Nino Manfredi. tu facevi la moglie, la moglie di Manfredi. Titi Nucci Lascià. Titi Nucci Lascià. Io ho conosciuto Scola, che è stato meraviglioso. E poi niente, ricordiamoci del grande Benigni, adorabile, adorato. Persona veramente deliziosa. Molta deliziosa. Gente quando ci incontra ci chiede per curiosità, per avere la conferma, ma lui è veramente così. Ecco, noi credo che un coro all'unisono fra me e Giuliana. Roberto Benigni è realmente una persona carina, ho una parola per tutti. Io ho la fortuna di incontrarlo in un ristorante a Monteverde, perché io sono di là. E lui va spesso a mangiare in questo ristorante. Non solo, ma va spesso anche a teatro. Io l'ho scoperto a teatro a vedermi nell'Amante inglese di Marguerite Duras, dove c'era ancora Aroldo. Quello è rimasto folgorato. L'ultimo spettacolo del grande Aroldo, vero? Se 2000, non sbaglio. Nel 2000, purtroppo. Era già un giovincello anche lì. Aroldo sfiorava i 90 anni, capito? Però era strepitoso. Poi a un certo punto ha dichiarato proprio chiaramente che non se la sentiva più. Insomma, cominciavano i primi problemi. Aroldo se n'è andato con un grande cauchemar, perché ha avuto un grandissimo problema. Aroldo stava diventando cieco. Vedi caso come il destino di Totò, con cui lui ha lavorato tantissimo, come capito? No, sceicco, e a quel punto Aroldo non ce l'ha fatta più, ha detto Giuliana. Si è lasciato andare. È il saluto per la vecchiaia, nel senso ho fatto, non per brutta malattia, non per infarto, ha chiuso gli occhi, ti ha salutato. Non posso più non vedere in palcoscenico quello che accade a me stesso, a quello che mi accade intorno, e soprattutto a non vedere il pubblico. Certo. Per cui ho pensato il grande amore, è andato via, ci ha salutato dichiarandolo. Con molta serenità. Io ho ripreso a lavorare e ho fatto molte cose da sola, con molta paura, con molto cauchemar, perché questa roccia che avevo vicino non mi sorreggeva più, avevo paura che ma anche da lui sola... si sorreggeva a te, però Giuliana, cioè, non dimenticare che il tuo carattere, la tua forza, che tuttora traspare dalle parole che dici e da quello che dicono i tuoi colleghi che hai affrontato a viso aperto, nonostante eri una donna in un periodo in cui la donna magari nel teatro non aveva la forza di un uomo, adesso magari è diverso. Però vedi, io credo che anche lui si sia, poi tu ricordi lui, perché non c'è, io credo se fosse successo il contrario, Aroldo era qui a raccontarmi, non c'è ma più certo, quella roccia di Giuliana sulla quale mi appoggiavo. Beh, lui era il, come dire, era il capo in testa, nel senso che io affidavo a lui, studiando, guardando, leggendo, di questo mi faccio un onore. E le cose che abbiamo fatto spesso partivano da certe indicazioni che io trovavo la notte, leggendo disperatamente testi di autori, e poi però pensavo sempre a lui come assoluto protagonista, perché ritenevo che fosse giusto così. E però lui era come dire la fase portante, poi ero il bulldozer che da dietro spingevo tutto. Eri tu che questo senz'altro, sì, perché lui era sempre sul piede di guerra dicendo io basta, ecco, e allora, invece ho continuato a trascinarlo. Questa è una seduta psicanalitica, sta diventando, sono il tuo psicanalista. Lui diceva basta e tu l'hai trascinato continuando. Sì, tu stai dicendo basta e lui adesso, non per mia voce, ma per il mio sguardo che si sta impossessando, lui si sta impossessando di me, ti dice non basta, no, adesso non vediamo, basta. Vediamo un pochino, ripeto, se mi si offrirà non per un teatro stabile o cose del genere, perché l'abbiamo sempre evitato. Io non sono d'accordo sui teatri stabili. Sì, quello l'hai urlato dalla prima. sono stata una privata troppo tempo per parlare dei teatri stabili, che si mangiano gran parte delle nostre sovvenzioni, non lo trovo giusto. Però se mi si offre una stanzialità differente, cioè se mi si offre di non fare delle tournée massacranti, oppure aspetto televisione che sta arrivando e cinema che sta arrivando. Per cui è un fatto stanziale diverso, e non si pensi che il cinema o la televisione sia meno stancante, perché alzarsi spesso alle 6 del mattino e andare avanti a lavorare fino alle 7 di sera non è tanto comodo. Però ti offre la possibilità o di rimanere a casa tua o di stare in un albergo per lungo tempo, oppure di pagarti i tuoi vizi, che sono il teatro. Esatto. Perché il teatro è proprio come il se fosse il cinema, ti offre la possibilità di andare avanti di più, perché in un 20 giorni, un mese, quanto ti offrono le cosiddette pose da da sì, affrontare, e ti puoi pagare 5 mesi di teatro. La tua libertà, infatti io lo dicevo sempre, sì. Lo dico sempre, la televisione mi permette di essere un attore libero, sì, perché magari con i soldi della televisione, che sono, non immaginate signori che siano così tanti, ormai sono 1000 anni che non sono più abbastanza anche lì, però ti permettono magari di investire nel teatro. Anch'io cerco di essere più stanziale possibile, sì. Anche se mia moglie mi ucciderebbe perché vuole andare in giro. Lei vorrebbe andare in tournée, l'ho avvertita. Non è tutt'oro qualche rinuncia. l'ho avvertita, però lei è brava anche da sola, per cui andrà da sola in tournée sicuramente. Però Giuliana, è così, una situazione stabile per quanto ti riguarda. Hai un testo che vorresti fare che non hai fatto, che vorresti rifare? Che vorrei hai fatto? Rifare, vorrei trovare un'altra Maria Stuarda per rifare Elisabetta in Maria Stuarda di Schiller. Questo mi è piaciuto farlo con Marina Malfatti, che insomma ogni tanto sento qua e là, ma non più stabilmente. Lei è più grande di te, Marina? Più... Credo di sì. E mi piacerebbe rifare quello, ecco. E poi naturalmente sempre con eventualmente un Giancarlo Sepe che mi supporti, perché abbiamo una complicità proprio insieme che forse mi è mancata con altri registi. A saperlo di questo grande affetto che c'era, lo potevamo chiamare al telefono Giancarlo, certo. E potevamo farlo lui intervenire. Amerebbe molto riprendere qualche cosa con me, mi ha già tirato un titolo così, che però... cosa ti ha tirato? No, non posso dirlo. Ah, non si può dire, va bene. Non si dice assolutamente, no. Però c'è la possibilità, magari il teatro, ecco, quale teatro? Qui a Roma sicuramente, perché... Ma io penso che prima o poi ritornerò all'Eliseo, perché so che comunque ma sia... Ma quella è casa tua. Sì, è stata casa mia per tanti anni. E credo che Luca Barbareschi... Io so che lui ha una grande stima di me e penso che prima o poi ritorneremo lì. Però c'è del tempo davanti e penso di impegnarlo in cinema e in televisione. In cinema si può dire che cosa sta succedendo? Ecco, grazie Giuliana. E in televisione si può dire, Sofia? No. Beh, bellissimo, un'intervista che apre... Finalmente è l'unica persona che non ha il presupposto che non... del futuro. Di parlare del futuro. Bellissimo, non perché non ne abbia, ma perché non ne vuole parlare. Normalmente un'intervista finisce sempre, no? Allora Giuliana, sono i progetti e il futuro? Non perché io non sono attaccata al problema che porti No, non neanche io, tanto che succede, succede. No, perché non voglio parlare di cose che non sono ancora certe contrattualmente. E io ne parlo sempre e soltanto quando sono certa. Senti, ma tu hai anche una vita privata, nel senso come hobby, ma ne voglio parlare più compiutamente nell'ultimo blocco che dedicheremo a questa trasmissione insieme a te, per l'ultimo momento poi dedicarci al calcio, gli ultimi 2 minuti, perché c'è il collegamento con la trasmissione che viene dopo. Tu sei tifosa, per esempio? No, purtroppo no. Va bene così. No. Vedi, ho scelto di lavorare domenica. Mio figlio che è tifoso dell'Inter, ogni tanto l'ho seguita per lui, così. Ma, così. Ma non... Figli, tu ne hai due, mi hai detto, vero? Davide di... sì, grandi, Davide e Sabrina. Nessuno dei due è in questa direzione? No, si è occupata di costumi, Sabrina, è una costumista molto valida. Per cui rimane all'interno. Molto piacevole, è rimasta nell'interno, sì, con grande problematica anche lei. Beh, adesso sono ancora di più di quelli, almeno prima i costumi potevi costruirli, disegnarli, sì. realizzarli. No, adesso devi andare per strade tortuose per procurare all'eventuale produttore le cose che costino di meno in affitto. O quelle a casa che non metti più. Sì, parlando così, ma è vintage. Sì, è vintage. Detesto questa parola. No, è solo usato e c'è una lira per comprare quelle. Esatto. Allora, prima di giocarci la possibilità di lavorare nel futuro con tutti i teatri italiani, ci fermiamo un attimo ancora per riprendere gli ultimi 10 minuti insieme a Giuliana Lo Iodice, alla sua gioia di vita e gioia di fare teatro, perché lo rifarà a teatro. Qui lo giuro, chiamate Giancarlo Sepe. A tra poco, Voice Anatomy. Voice Anatomy. Signori, bentornati, Voice Anatomy. Vicino a me, la sorridente e piena di vita, la nostra Giuliana Bulldozer, Lo Iodice, che non si ferma davanti a niente. Stavamo percorrendo, stavamo ricordando anche questo piccolo minuto che ci ha diviso, della grandissima... Maria Angela Melato, con la quale tu hai condiviso Quel che sapeva Maisie di Henry James, con la regia di Luca Ronconi, due che persone... è un altro grande che non c'è più. C'è una regia in paradiso meravigliosa, secondo me c'è un cast che non finisce mai. Forse lo stanno anche già preparando per allora, pochi di noi sbrighiamo... che li raggiungeranno. Sbrighiamoci, sembrava dire sbrighiamoci che so perdo la parte. Se fossi certo, se fossi certo al 100% che ci stessi, insomma, uno ci fa un pensiero di cosa che c'è, raggiungo un attimo, però ci piace pensare. Mariangela è stata una grande ed una grande amica, siamo state molto bene insieme, cosa che all'inizio non supponevamo nemmeno, perché sai, lei è una grandissima, io una grande vicino a lei, così avevamo tutte e due un po', eravamo in attente a segnare il territorio. Sì. Poi è nato un amore sviscerato e lei mi ha scritto col rossetto, mi ricordo, sullo specchio del Piccolo Teatro di Milano: sei una donna eccezionale. Ma detto da un'altra donna eccezionale. Sì, siamo venute molto bene con Angela. Prima c'era un featuring, come lo chiamano gli americani, delle collaborazioni grandi, grandissime. Guarda la compagnia dei giovani di Romolo Valli, Lullo, Orsini, i grandi. Ho avuto il piacere di conoscere Corrado Pani e stare vicino a lui fino all'ultimo respiro. Magari qualcuno di loro non era simpatico fino alla... ma almeno avevano una profondità. No, scherzi. E in scena avevano un background che portavano addosso con molta serenità e con molta leggerezza, capisci? Perché poi erano dei coser. Erano sinceramente, sì, certo. Straordinari. Anche loro. Io voglio ancora molto bene oggi a Umberto Orsini, che mi ha permesso di vivere una stagione con Massimo Popolizio. Massimo, un caro amico, che grande, saluto, sì. Un grande del futuro ancora, e facendo Copenaghen di Michael Frayn, sì. Che è una pièce che si basava sulla bomba atomica, per cui tutto potevamo pensare che invece avesse un successo strepitoso, perché ancora oggi ci chiedono: ma perché non rifate Copenaghen? E io ogni volta che incontro Orsini lo guardo con attenzione, non mi parlate di Copenaghen, perché lui è sempre lì che ci pensa. Di chi era la regia? La regia era di Avogadro, e poi però sai, eravamo in tre. La regia era vostra. Non è che ci potessero indicare molte strade. Con Massimo Popolizio, mi piace ricordarlo, perché è un caro amico, cominciamo insieme con l'Allegra Brigata a Monteverde, prima di diventare premiata ditta. Massimo fu il nostro protagonista nel Giulio Cesare, ma non lo dite a Shakespeare, perché lui è un attore comico straordinario. Strepitoso. Petrolinano. Abbiamo fatto insieme il film con Aldo Giovanni e Giacomo, l'ho fatto 2 anni fa, e c'era anche lui che faceva il parroco. Vedi, gli attori non sono che caratteristiche, come adesso sono i caratteristi, cioè quello assomiglia all'idraulico, gli famo fa l'idraulico, quello assomiglia a una ballerina, farà la ballerina. No, tu eri un'attrice che interpretava una ballerina, ma poteva interpretare l'idraulico, che poteva interpretare, cioè guarda Gianmaria Volonté, e invece adesso c'è una scorciatoia fisica. Che passare dal primo attorato al carattere è una delle cose migliori che ti possano capitare. Perché hai raggiunto un momento in cui dai fuori tutto quello che non hai potuto tirare fuori prima. Ed è molto piacevole, e il riconoscimento di questo anche da parte di grandi, perché io li reputo grandi, come Aldo, Giovanni e Giacomo, che mi hanno voluto per fare la mamma di Aldo, è un bellissimo. Ma certo. È, come dire, ti dà una forza di pensare a te stessa in un'altra, con un altro obiettivo, in un altro... Un altro grande regista attento, di adesso è Ozpetek, che ogni tanto prende degli attori... Io purtroppo non ho passato un provino con lui. Che era Mine Vaganti, sì. Però giustamente loro mi fecero ragionare, perché presero Ilaria Occhini, sì. Perché avevano bisogno di una donna un po' più grande, diversa. Sì. E hanno preso Ilaria, che ha svolto benissimo il suo ruolo. L'unica cosa che imputo a Ozpetek è che lui ha girato pugliese, e la pugliese ero io, non era certamente Ilaria. Ah certo, è vero. Mi dispiace tanto. Allora, però, qui ti fanno tanti complimenti. Grazie. È vero, si sente dal tono della voce che sei una donna roccia, una donna determinata ed intelligente, parli con amore. È giusta che tu abbia una meritata stabilità, ma perché non andate voi attori coi forconi alla Rai perché si rifaccia il teatro e i sceneggiati di una volta? Ci sono milioni di spettatori che lo rimpiangono. Grazie, come dice giustamente Giuliana, in effetti la vita è adesso, il futuro chi se ne frega. Qualcuno sì, dice... ma sì, dai, cerchiamo di tenerci con le spalle ritte, come si dice, col portamento eretto. Allora Giuliana, io ti strappo due promesse. Una, che se ti venga a prendere io ti riporto qui, stai qui con me. Ah, e sono con stata noi. Talmente bene che torno volentieri. Torni qui, ti venga a prendere, ti veniamo a prendere in braccio, ti portiamo qui. Grazie. Cammina benissimo, è molto meglio di me, per cui in braccio dovete per essere ancora più ossequiosi, perché il tuo racconto è soltanto cominciato come la nostra trasmissione. E vorrei che tu ti fermassi ancora con noi. E veramente, qui sono tanti messaggi, grazie, perché questa è una testimonianza di affetto, d'amore, di intensità, di volontà, che non ha età. Che io dedico. Infatti non l'ho detto che quanti anni hai. No, no, non io ce n'ho 75, perché? Lo vedi, capito? Tu specchia di me, sembra ce n'ho 78. Ma non è vero, ma chi se ne importa? Guarda. Brava. Che io amerei avere il colore dei tuoi capelli. Esatto. Solo che non mi vengono, mi vengono tutti sfrezzati, grigi. Io vorrei avere così. I tuoi contributi Empals, con la gente con cui li hai avuti tu, va bene? Io dei tuoi capelli, tu mi dai quelle giornate lavorative con Visconti e tanti con tutti gli altri. Allora, e tanti auguri al pubblico che ci ha seguito. Sì. Mi ha fatto molto piacere stare con tutti voi. Grazie Giuliana, grazie davvero, e io mi collego. Nel frattempo posso salutare Giuliana, che può togliersi la cuffia, alzarsi comodamente, non ci importa niente dei rumori che succederanno in questo studio. Grazie Giuliana ancora, sei bellissima. Grazie. Peccato che non possiate vederla adesso, perché è radio, non è televisione, ma la vedrete presto in televisione, non ci dice dove, la vedrete presto al cinema, ma non ci ha detto dove. Invece mi collego con il nostro amico Giovanni Capuano per lo sport e sentiamo un po' di risultati. Eccoci Pino, ma... conosci Kevin Lasagna? Che? Kevin chi? Lasagna. Kevin Lasagna. Kevin Lasagna, Carpi, 19 sì. partite e da oggi un gol in Serie A. Lo ha fatto al 92esimo di Inter-Carpi ed è il gol più importante della domenica. Ha pareggiato, Madonna partita mia. Appena finita, Inter-Carpi 1-1 e questo ovviamente aprirà mille considerazioni sul momento che sta attraversando la squadra di Mancini, che ha fatto 5 punti nelle ultime 5 partite e in questo momento è stata ufficialmente raggiunta dalla Fiorentina al terzo posto e quindi continua a scendere in classifica. 1-1 partita finita. Così come è finita adesso la partita della Lazio, che ha vinto pur soffrendo 4-1. La Lazio. 4-1. 4-1, il Chievo vinceva 1-0, gol no, di Cesar. No, perché il mio fonico mi ha detto solo 1-0 per il Chievo, sì, poi si è dimenticato. Ha detto di un pareggio, giocano in 10 e se ne è fregato di raccontarmi sì, il resto. Sì, partita che è stata anche decisa, diciamo, da un paio di chiamate del direttore di gara, perché sull'1-0 c'è stata un'espulsione molto dubbia a Cesar, la Lazio è rimasta 11 contro 10, c'è stato un gol su rigore di Candreva per l'1-1 che assomiglia abbastanza a una simulazione, poi da lì in poi la Lazio ha preso coraggio, Cataldi, ancora Candreva, c'è stato un rigore parato a Paloschi e poi proprio nei secondi finali il 4-1 di Keita. E poi ti racconto della vittoria del Napoli fuori casa a Genova contro la Samp per 4-2, ha segnato tanto per cambiare Higuain, 21 gol in 21 partite, poi Insigne su rigore, Correa, Amsic e Der per il 3-2 e il 4-2 finale di Mertens. C'è da raccontare il 4-1 del Palermo sull'Udinese, partita abbastanza divertente, ma l'Udinese va avanti di 4 gol in 4 gol presi. Il blitz esterno del Bologna contro il Sassuolo, 2-0, Giaccherini e Floccari. Sì, Giaccherini e Floccari. Ha subito si è vendicato il gol dell'ex immediato. Il gol dell'ex e ha esultato, che anche questa è diventata cosa una della, notizia. Dai, vabbè, ma dai, ma veramente questa è una cosa che io proprio vergognosa. Dai, tu giochi ormai devi esultare, basta. Assolutamente. Tutti hanno giocato con tutti ormai. Tu sai che noi abbiamo aperto una campagna dopo il fatto di Quagliarella, chiedendo a tutti gli ex per cortesia di esultare, ma a tutti gli ex in senso assoluto. Ma vi prego, a meno che non abbia giocato 30 anni con una squadra, gioca uno e segna, dico, lo capisco, va benissimo, ma ormai tutti giocano tutti contro due, sembra beautiful, ormai tutti stanno con tutti, per cui se baciano i tatuaggi, le magliette, i scudetti, le cosce, non si capisce più. Un abbraccio antico. Sì, c'è ancora come un uno risultato, segnava eh? E si abbracciavano tutti, ma non è bello. Adesso si scansano perché uno deve andare a abbracciare una persona. È un cattivo costume, è un cattivo costume che andrebbe te, cancellato. Manca l'ultima partita appena terminata, Verona-Genoa 1-1 e Verona raggiunge dopo 21 partite il doppia cifra, 10 punti. Vedi, è una piccola, è una piccola considerazione. E stasera c'è Juventus-Roma. Ma poi stasera c'è Juventus-Roma, Juve che a questo punto è staccata di 5 punti dal Napoli e quindi questa sera deve giocare deve per restare in scia. il mezzo passo falso dell'Inter regala però anche qualche speranza, secondo me, alla Roma, che è sotto 6 punti da Nerazzurri e Fiorentina, ma se davanti continuano a camminare così e non a correre, può anche pensare di rientrare nella lotta per la Champions. Beh, il campionato è veramente divertente a questo punto. Bene, caro Giovanni, ti abbraccio. Grazie. Buona trasmissione anche ai tuoi carissimi colleghi e amici miei. Bene, grazie Giovanni. Allora, con voi ci sentiamo come sempre domenica prossima. Grazie, grazie, grazie veramente dell'affetto che ci dimostrate. Speriamo di ridarvelo intero per come ce lo date. Grazie per volerci così bene. Voice Anatomy torna domenica prossima su Radio 24. Grazie.